Sarà stato per via delle terre ben coltivate che simbolicamente rappresentava. Sarà stato per la bellezza. Fatto sta che Zeus, come poeticamente dice Esiodo, ascese il talamo di Demetra. E che di questa ascensione Demetra rimase incinta. Mise al mondo Persefone, tanto bella da far perdere la testa ai diavoli, tanto è vero che Ade se ne invaghì e se la portò agli inferi suoi. Demetra, madre disperata, straziata nella sua dolorosa domanda senza risposta, vagò alla ricerca della figlia senza più curarsi della fertilità delle sue terre e senza mantenere la capacità di nutrirsi. Non sapendo più nulla di Persefone, le regole del mondo per lei non avevano più senso, figuriamoci il cibo. Fin qui più o meno quasi tutte le versioni del mito concordano. Alcune dicono anche che poi, una volta giunta a Eleusi e una volta incontrata una serva tal Iambe, che altre versioni invece chiamano Baubo, improvvisamente l'atteggiamento di Demetra cambiò. Il secondo capitolo delle avventure di Tom Sawyer di Mark Twain si apre sul fresco e luminoso sabato di una mattina d'estate. Tom è stato incastrato da zia Polly nell'insopportabile compito di dare una bella mano di bianco alla palizzata davanti a casa. Si tratta di un lavoro che si preannuncia faticoso e lunghissimo. Tuttavia, dopo aver tentato inutilmente di farsi aiutare, trova l'argomentazione giusta per far fare direttamente il lavoro ad altri, guadagnandoci. Predispone la trappola valorizzando ciò che sta facendo e il primo ragazzotto spocchioso che passa ci casca. Tom si accorge di essere osservato ed evita le burle dei compagni che possono liberamente andare a spasso, fingendosi concentrato in un compito privilegiato, tanto privilegiato da costituire valore per altri, valore per tutti. L'astuto Tom, in altre parole, convince gli altri che il suo lavoro è difficile, che può farlo solo lui, che il risultato è rilevante sul piano etico ed estetico. Da ciò l'immediata richiesta popolare di poterlo sostituire, pagando addirittura per fare qualcosa che nessuno avrebbe voluto fare neppure con una pistola alla tempia. Nella confessione di un umorista, che è un racconto di O. Henry, che è lo pseudonimo dell'americano William Sidney Porter, allora in questa confessione di un umorista si racconta di un tale, mattacchione per natura, allegro e barzellettiere, che trova impiego presso una casa editrice come scrittore umorista. Deve far ridere il suo pubblico, come ha sempre fatto ridere la cerchia dei suoi cari e degli amici che frequenta. Ma presto si rende conto che lo stato di necessità annichilisce le sue capacità e che quel che ora è un lavoro lo opprime mortalmente. In casa semina incubi, la moglie e i figli cominciano a evitarlo. Il talento si esaurisce e si ritrova senza lavoro. Per sua buona sorte, tuttavia, gli capita l'occasione di entrare come socio in una agenzia di pompe funebri e, come per incanto, fra bare, feretri e requiem eterna, ritrova tutta la sua vena umoristica. Il lieto fine lo vede felice, riunito ad una famiglia altrettanto felice. I casi di Tom Sawyer e dell'umorista di O. Henry rappresentano bene la rilevanza degli atteggiamenti con cui ci si costruisce il mondo e dell'opportunità di saperli sostituire modularmente l'uno all'altro. Se ciò che è considerato come lavoro può essere considerato come gioco, molte cose cambiano. L'umore di chi fa, intanto, poi cambia la fatica e le gratificazioni relative. Presumibilmente è anche il risultato ottenuto. Con quella sua superficialità che gli deriva dall'amore per la battuta e dal pelo sullo stomaco politico che lo secerne, Mark Twain spiega che il lavoro consiste in qualunque cosa una persona è obbligata a fare, mentre il gioco consiste in qualunque cosa una persona non è obbligata a fare. Chi gioca sa quanto a volte si sente obbligato a farlo, e chi lavora sa che a volte lo fa senza esserne affatto obbligato. Il senso dell'obbligazione o della disobbligazione dipende da un ulteriore atteggiamento che a sua volta ha da essere spiegato. Direi che individua meglio la differenza un'analisi di Silvio Ceccato, in virtù della quale il lavoro si costituisce allorché il risultato, una volta ottenuto, viene mentalmente distaccato dall'operare, mentre il gioco si costituisce allorché operare e risultato vengono mantenuti assieme, incorniciati mentalmente e conchiusi. Ne consegue che il risultato del lavoro, come già compreso da Marx nel suo concetto di alienazione, non appartiene a chi l'ha fatto, mentre il risultato del gioco gli rimane tutto con le gratificazioni conseguenti. Nello sport i due atteggiamenti si ibridano con le rogne del caso. Al bambino si dice vai a giocare e divertiti, poi si sta a vedere. Se biologia e cultura si mettono in combutta per il verso giusto, se giocando se la cava, gli si dice vai a giocare, allenati bene. Se poi eccelle, il discorso cambia ancora e gli si dice vai e vinci. Non è un problema caratteristico dei giorni nostri, è un problema antico. Paro paro lo si ritrova nella Grecia antica. Nel 597 avanti Cristo lo spartano Chilone, che pur passava per uno dei sette saggi in un momento di scarsissima saggezza, ci lascia alla pelle per l'emozione quando gli dicono che suo figlio ha vinto un incontro di pugilato. L'argomentazione negazionista, infatti, è relegata negli stretti ma non asettici ambiti della letteratura necrologica, come quando intervistano il direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alla morte dell'avvocato Agnelli. Gli chiedono cosa ci ha insegnato l'avvocato, e lui risponde ci ha insegnato che il calcio è un gioco. È una bugia, ovviamente, cui non crede nessuno, meno che mai, senza che ciò la renda meno grave, chi la riferisce e chi suo tramite avrebbe dovuto assumersene la paternità. Il calcio può essere considerato un gioco soltanto a condizioni di ingenuità sociale tanto straordinarie, direi, da essere un dono, uno dei pochi che neppure l'avvocato si poteva comprare. Anche Demetra, sconvolta dal dolore, cambia di atteggiamento. Non riusciva a mandar giù un boccone, ma incontra questa Iambe o Baubò, che dir si voglia, e improvvisamente ride e accetta il cibo. C'è chi dice, piuttosto genericamente, che Iambe Baubò le fece degli scherzi, ma non precisa di che scherzi si trattasse. I scherzi idonei a far ridere una madre nella più cupa disperazione per la figlia perduta è difficile immaginarne. Il mitologo ungherese Károly Kerenzsi e lo strutturalista russo Vladimir Propp, sostenendo due tesi affini, sono più precisi. Il primo, che Renzi, dice che Baobò, che non a caso vuol dire pancia, dice che Baobò offrì alla franta Demetra una bevanda d'orzo e che al suo rifiuto le si sedette di fronte a gambe divaricate sollevandosi la veste. Il secondo, Prop, dice che Iambe, che per lui era Iambe, al rifiuto fa un bel gesto osceno. Tutte e due dicono che sia avvenuto, che abbia visto, Demetra ride e ridendo si rialimenta, e con il che la natura riprende a vivere e sulla terra torna la primavera. Prop racconta allora che ancora nel Medioevo era diffusa l'usanza del riso pasquale. Nei paesi cattolici, durante il riso religioso per la Pasqua, il sacerdote rallegrava i parrocchiani, presumibilmente anche se stesso, lo aggiungo io, con scherzi indecenti per indurli al riso. L'ostentazione del sesso e i prolegomeni della risata grassa costituiscono uno scarto talmente ampio dal corso regolare e inesorabile del pensiero doloroso da poterlo deviare fuori dalla mente che ne oppressa, e quindi un salto valoriale immenso. È come dire che a volte soltanto il paradosso può salvarci dal giogo della sofferenza e ricacciarci nel tumulto della vita.